voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Settima puntata. Fascino. Un pomeriggio di agosto in montagna, tra nubi nere e brontolanti, una donna con grandi occhi limpidi pieni di curiosità e un bambino biondo e un po' grasso per mano, vide in una stradina deserta un uomo alto che somigliava a Clark Gable. Gli occhi si spalancarono, pensò: "Oddio, è proprio lui!" e si fermò con una mano al petto. E in quel momento cominciarono a cadere grosse gocce. Si alzò il vento e la donna, che non voleva mostrare all'uomo il rossore nel volto, si mise a correre verso il paese, tirando dietro di sé il bambino. Il bambino, con le sue gambe grassocce e i piedi un po' piatti, cadde subito con la faccia avanti e strillò, ma fu raccolto dall'uomo che arrivava. Lo alzò da terra con molta semplicità e forza nelle braccia, mostrando denti bianchissimi e occhi neri ridenti che lo calmarono di colpo. «L'accompagno», disse l'uomo col bambino in braccio. La donna fece sì col capo senza smettere di guardarlo fisso. Le nubi nere scesero fino alle loro teste. La pioggia cadde più fitta, l'uomo teneva una mano sulla testa del bambino. Ci fu qualche lampo, schianti lontani tra gole e valli, e l'uomo prese la mano della donna durante quei lampi. Arrivarono all'albergo completamente bagnati. L'uomo la salutò con un sorriso uguale a quello che aveva calmato il bambino e disse un nome: Vargas. La donna salì in camera, spogliò il bambino e si spogliò. Avvolse il bambino in un piccolo accappatoio azzurro e lasciò correre l'acqua del bagno tra i fumi del vapore. Poi si immerse col bambino in braccio. Il bambino giocava con l'acqua e la spruzzava e faceva domande imprecise ma insistenti che la madre non sentiva. A un certo punto il bambino la colpì con una mano su un seno. La madre parve svegliarsi, disse: «Stai fermo, petulante!» con una voce secca, e il bambino cominciò subito a piangere. La donna si alzò e uscì dal bagno. Diede due scapaccioni al bambino nudo e bagnato che strillò. Senza badare ai suoi strilli lo asciugò, lo infilò nell'accappatoio con mosse ruvide e frettolose e pensò: «Ah, le gambe a X e i piedi piatti!» Questo pensiero la intenerì e coccolò il bambino, che si calmò subito e riprese a fare domande. Non era un bambino molto intelligente e la donna lo sapeva, ma lo amava lo stesso. Anzi, lo amava molto di più proprio quando sentiva quelle domande senza nesso e prive di vera curiosità e vivacità che il bambino faceva sempre per attirare l'attenzione svagata della madre. Gli sorrise e gli fece il solletico. «Icchio, picchio, ticchio», disse senza convinzione, ma il bambino rise felice lo stesso e chiese altro solletico. La donna vestì il bambino, parlò al telefono con un'amica in albergo e le disse di mandare la sua nurse a prenderlo per la cena con gli altri bambini. La nurse arrivò quasi subito. Il piccolo fece qualche storia e non voleva lasciare la madre, ma sentì dietro la porta le voci dei suoi amichetti e uscì. La donna rimase sola in vestaglia. Cominciò a truccarsi, ma non a lungo, e si vestì pensando sempre a quel Vargas. Disse anche due o tre volte il nome, prima nel pensiero, poi a voce alta, e sempre sentiva una specie di tuffo al cuore. Chiunque avrebbe potuto scambiarlo per Clark Gable. Era vestito in modo un po' antiquato, con pantaloni quasi bianchi di grossa lana greggia, un maglione bianco e scarpe bianche e nere. Era un uomo bellissimo, il più bello che lei avesse mai visto. Ma chi era? Andò al telefono, chiamò il portiere e disse: «Senta, Renato, lei conosce un signore che si chiama Vargas?» «Certo, signora, è un boliviano che ha un negozio qui.» «Un negozio?» «Sì, un negozio di oggetti boliviani.» «Dove?» Il portiere le spiegò dove e la donna finì di vestirsi in fretta. Aveva già infilato i pantaloni, ma li sfilò e indossò una minigonna scozzese e dei mocassini sui piedi nudi. Infilò anche un impermeabile, accese una sigaretta e uscì. Il cielo era tornato limpido e color viola pallido con qualche stella. Andò correndo fino al luogo indicato dal portiere, ma non vide nessun negozio di oggetti boliviani e si sentì molto debole alle gambe guardando in giro con occhi impauriti. Poi lo vide dentro il negozio, che era una specie di minuscolo bazar, pieno di costumi boliviani ammonticchiati, cappelli a tuba, pipe e giocattoli fatti a mano. Era vestito con un paio di pantaloni scuri, sempre di lana greggia, e un maglione blu da marinaio. Le scarpe erano bianche, con una grossa suola di caucciù. Quando l'uomo la vide sulla porta con gli occhi spalancati e i piedi stretti uno all'altro come quando si ha freddo, sorrise per un bel po'. Senza alzarsi da una sgangherata poltrona di vimini, disse «Prego!» e allungò una lunga mano da negro. La donna entrò timidamente. «Buongiorno!» disse nel modo più educato possibile. «Lei è stato molto gentile, sono venuta a ringraziarla!» L'uomo la guardava sempre sorridendo e rispose «Di niente, si accomodi. Vuole bere qualcosa, whisky o anice?» «Anice?» disse la donna. «Sì, anice.» L'uomo scese una scaletta che portava nel seminterrato e tornò con due bicchieri e una bottiglia. «Lo ricevo dalla Bolivia», disse l'uomo, e la donna udì il suo accento un po' sibilante. «Lei è boliviano?» domandò la donna e cominciarono a parlare. Parlarono molto. L'uomo disse di essere uno psicanalista fuggito dalla Bolivia per ragioni politiche. La donna disse che si interessava molto alla psicoanalisi e su questo argomento, bevendo molto anice, la donna allungava il bicchiere quasi scusandosi, ebbero modo di fare una discussione molto interessante. L'uomo spesso diceva la parola «claro» nel finire una frase e allargava le braccia con un sorriso. La donna non capiva perché, ma quando lui diceva «claro» accennava di sì molto seriamente col capo. La donna gli chiese dove viveva e l'uomo, con molta tranquillità, disse che dormiva giù nel seminterrato. «Io sono un uomo povero, poverissimo», disse con una risata forte e quel suo accento. «Vuole vedere dove sto?» «Sì», disse la donna, e scesero la scaletta a chiocciola che portava nel seminterrato. C'era qualche manifesto, una grande fotografia di donna appesa al muro, molte casse e un fornello elettrico con una caffettiera su una cassa, un attaccapanni con dei vestiti appesi e un letto con una coperta boliviana stesa sopra. La donna non aveva mai vista tanta povertà e ne era attratta perché era certa che quella povertà, come i vestiti dell'uomo, nascondevano un mistero che lei non era degna di conoscere. Aveva la testa caldissima che girava e sentì la sua voce che diceva «Io vorrei dormire un po' qui vicino a lei» e nel dir questo si spogliò in fretta chiudendo gli occhi. Quando fu vicino, lei si rannicchiò subito contro di lui. L'uomo disse qualche parola in spagnolo che lei non capì perché stava bene attenta a essere degna di lui, se poteva, nel migliore modo possibile e se possibile senza errori. Pensava soprattutto a questo, di non far errori con un uomo come il signor Vargas. E gli chiese il nome perché voleva chiamarlo per nome. «Marino», disse l'uomo. Fame. Un giorno di agosto del 1968, nuvole nere e basse correvano nel cielo di una piccola città della Nigeria orientale e ogni tanto pioveva. La pioggia cadeva in fasci di gocce enormi che scioglievano la terra rossa delle strade e diventavano torrenti diretti chissà dove. Poi tornava il sole tra il verde della foresta. L'acqua raccolta nell'incavo delle grandi foglie dei banani cessava di zampillare e le ultime gocce si bilanciavano sulla punta di quelle foglie. Poi cadevano. In quel momento ricominciava il caldo. La terra rossa si asciugava fumando e negri ridenti vestiti di pezzi di nylon rosa e azzurri sorgevano da sotto i banani e parevano rincorrersi con i piedi, con la voce e con le mani. Quella piccola città era la capitale di un minuscolo stato che si chiamava Biafra e che ora non esiste più. Un certo colonnello Ojukwu, un negro pazzo che aveva studiato in Inghilterra, aveva fondato quello stato e un numero immenso di bambini e di vecchi fuggiti dalla foresta a causa della guerra stavano chiusi dentro recinti e vecchie scuole e morivano di fame, anche se in città c'erano dei banchetti che vendevano scatolette di cibo a borsa nera. Ma i bambini e i vecchi fuggiti dalla foresta non lo sapevano, e se lo sapevano non avrebbero mai avuto i soldi per comprare anche una sola di quelle scatolette. La propaganda del colonnello pazzo voleva che morissero per commuovere il mondo e convincerlo a riconoscere il proprio stato. E ci riuscì a farli morire, a commuovere il mondo e a farsi riconoscere da qualcuno. Lo stato durò pochi mesi, la guerra finì e i milioni di morti scomparvero. In uno di quei recinti sotto il sole e sotto l'ombra delle nubi nere e le docce improvvise, un uomo, un europeo, guardava un bambino nudo. Il bambino non era più completamente nero di pelle, né scuro di capelli, perché era diventato quasi roseo e rossiccio di capelli per mancanza di proteine e pareva come spellato. Inoltre era così magro che la pelle sul suo cranio era come seccata al sole. C'erano molte grinze secche intorno agli occhi e non aveva né collo, né guance, né labbra. Le dita delle mani e dei piedi erano le piccole ossa delle falangi che si muovevano stranamente insieme alle altre ossa dello scheletro. Nell'incavo del bacino aveva una piccola borsa di pelle grinzosa e tutti i suoi movimenti erano molto lenti, ondulanti e traballanti. Sorrideva guardando l'uomo che lo guardava e sorrideva anche ai fotografi che lo fotografavano in massa, come sorpreso e lusingato di tanta attenzione. Il suo sorriso era quello di un centenario che però in quel momento aveva qualcosa da fare, cioè sorrideva con cortesia ma senza abbandonare il lavoro che lo occupava. L'uomo che lo guardava da molto tempo aveva visto il bambino raccogliere degli stecchi intorno alla baracca e osservò che per fare questo aveva impiegato più di 2 ore. Prima con piccolissimi mucchi di stecchi intorno a dove si trovava e in seguito riunendoli in un solo mucchio. Poi aveva guardato l'uomo, l'uomo capì con lo sguardo, cavò di tasca l'accendino e accese gli stecchi che cominciarono subito a bruciare con un po' di fumo. A questo punto il bambino smise di guardare l'uomo. Frugò con le dita dentro una fessura della baracca, tirò fuori un topo infilato in un grosso stecco e cominciò a farlo girare sul fuoco con molta lentezza e con tutte e due le mani. Di tanto in tanto alimentava il fuoco con altri stecchi, infilandoli con abilità uno sotto l'altro senza far cadere quelli che già bruciavano e diventavano brace. Questo lavoro però lo stancava. Allora abbandonava il topo sul fuoco e il topo dopo un po' friggeva e si gonfiava. Al friggere del topo il bambino pareva svegliarsi e riprendeva in mano lo stecco che faceva girare tra le falangi che parevano molto lunghe, con unghie lunghe. Ma nel fare questo respirava sempre più affannosamente. La cassa toracica si muoveva come un soffietto e dopo pochi minuti il bambino lasciava cadere il topo sulla brace. Quello che pareva richiedere al suo corpo una fatica minore era infilare altri stecchi nel fuoco. Il bambino andò avanti immerso in questi esercizi per circa 20 minuti. Poi, come definitivamente stanco, ritirò il topo dal fuoco e lo lasciò cadere in disparte. Si Si sdraiò e parve addormentarsi, ma non dormiva. Di tanto in tanto apriva i grossi occhi bianchi e neri molto lucenti e sorrideva all'uomo. Fu in quei momenti di riposo che sorrise ai fotografi. I fotografi fecero il loro lavoro e se ne andarono. Uno si chiamava André. Era un giovanotto grassoccio, sudato, coi capelli rossi dall'odore acre. Strizzò l'occhio a una specie di suo capo senza macchina fotografica, uno magro con un orecchio bucato da una pallottola, e disse: «Vachement bon!» Evidentemente soddisfatto delle fotografie fatte al bambino. Il bambino pareva veramente dormire. Due o tre volte si scosse come per brutti sogni o per una contrazione dei nervi, mostrò i denti bianchissimi e sporgenti. Ma nemmeno allora dormiva, perché l'uomo vide il sacchetto del ventre muoversi come se contenesse un piccolo animale e un po' di liquido giallastro scorrere sotto l'osso del bacino. Il bambino aprì gli occhi, si accorse di quello che aveva fatto, si alzò traballando e si avviò piano piano fino a un ciuffetto di fogliame con cui si pulì. Poi si lavò prendendo acqua piovana da un secchio di plastica e si asciugò con delle garze che sfilò da un gran pacco sulla porta della baracca. In quei momenti l'uomo distolse gli occhi perché da uno sguardo del bambino capì che non voleva essere guardato. Lo guardò ancora quando il bambino finì del tutto di pulirsi e infatti il bambino sorrise e riprese attentamente il lavoro. Dalla fessura dove aveva nascosto il topo cavò un vecchio coltello e cominciò a raschiare dal topo tutta la parte carbonizzata. Questo gli portò via molto tempo, sia per la lentezza dei movimenti sia per la minuzia da vecchio con cui il bambino puliva il topo. Quando fu ben pulito cominciò a mangiarlo dalle natiche verso la schiena. Mangiava piccoli morsi, né abbondanti né voraci, come uno che ha poca fame. Di tanto in tanto guardava l'uomo con occhi abbastanza indifferenti, faceva piccole pause durante le quali staccava la carne del topo con le unghie e la mangiava con calma, osservandola prima di metterla in bocca. Ricominciò a piovere. L'uomo stette un poco sotto la pioggia, ma poiché la pioggia gli impediva di vedere, si rifugiò dentro la baracca, dove anche il bambino era entrato dopo aver lasciato cadere a terra ciò che restava del topo. Per entrare nella baracca il bambino aveva dovuto alzarsi e fare due gradini. Impiegò molto tempo a salire quei gradini, appoggiandosi allo stipite. Una volta traballò e stava per cadere quando sopraggiunse l'uomo che lo afferrò per un braccio. Restò in piedi, in equilibrio molto precario sulle ossa delle gambe, e tuttavia ne accavallò una come fanno i bambini vivaci e allegri, aggrappandosi però con le falangi della mano allo stipite della porta. L'uomo vide che nell'interno della baracca erano distesi due cadaveri di bambini, accanto ai quali stava accosciata una vecchia che piangeva. La pioggia era diventata torrente e portò subito via i resti del topo. Anche l'uomo stava appoggiato allo stipite della porta e non guardava più il bambino. Guardava il torrente formato dalla pioggia. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.